e metterò alla deriva tutti i popoli presso i quali andrai, e ti consegnerò il dorso di tutti i tuoi nemici. Manderò davanti a te il calabrone, e caccerà l'eveo, il cananeo, l'ittita davanti a te. Non lo caccerò davanti a te in un anno solo, perché la terra non diventi desolata e si moltiplichino contro di te le bestie selvagge. A poco li caccerò davanti a te, fino a quando tu abbia fruttificato ed ereditato la terra. Fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto al fiume, perché darò nelle tue mani gli abitanti della terra e li caccerai dalla tua faccia. Non farai alleanza con loro e con i loro dei. Non abiteranno nella tua terra, perché non ti facciano peccare contro di me se servissi ai loro dei, poiché sarebbe per te una trappola.